guida al vento. Non c'è tempo di raggiungere il confine, di scappare per di qua. E ripercorre tutti i giorni che ha vissuto per raggiungere quel giorno dove sembra non finire. Raggiungere l'Oriente sono rimasti solo sogni, solo sogni e niente più. E ripercorre tutti i giorni che ha vissuto per raggiungere quel giorno dove sembra non finire. A Basilea si balla all'alba sillabando, vi slunga ghigliottine, al giro di gironde savoiarde gradite come fiori di ghirlande. La vita che tu sai vissuta ritroverai sulla vetta del Tigrai e sugli alti Aitau, mai ritroverai. Thank you. Daghe di Dagon, dio dei Filistei, dio della luce che sfreccia. Decapitate quei grassi burocrati nostrani e le loro mani. Come tessere di fiabe sibilline affonderanno nelle acque levantine. Come tessere di fiabe sibilline affonderanno nelle acque levantine.